Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Inviato alla Svenska Akademie, l'Accademia di Stoccolma che ogni anno assegna i premi Nobel, Roberto Saviano ha l'occasione di incontrare uno scrittore che, come lui, vive da anni sotto scorta, Salman Rushdie. Gli accademici sono nominati a vita, 18 membri che io mi figuro come ultimi aruspici che vaticinano il futuro delle lettere. Venerati, odiati, mitizzati, sminuiti, presi in giro per il loro potere, corteggiati da tutto il mondo. Non riesco a immaginarmeli. Nella sala riservata incontro i primi due, un anziano signore che si era tolto le scarpe e una signora che cerca di dargli una mano a infilarsele di nuovo. Con un'eleganza naturale, mi stringe la mano e poi mi dice: «Il suo libro mi è entrato nel cuore». Capisco presto che la Svezia è attentissima a ciò che accade altrove, il paese che forse più di tutti al mondo sente le contraddizioni di altri paesi come proprie. Alcuni accademici mi rivolgono domande sull'Italia, in un modo però che non mi sarei aspettato. Un signore si avvicina per mettermi il microfono, mi parla in italiano e io reagisco con stupore. Perché si stupisce? Lei qui è al Nobel, dove parliamo tutte le lingue del mondo. Salman Rushdie aspetta già nella stanzetta riservata. Ci abbracciamo. La generosità che mi dimostra sin da quando ci siamo incontrati la prima volta nasce da chi non dimentica quel che ha passato. Vuole trasmettermi qualcosa di quel che ha imparato sulla sua pelle. Vuole forse che io possa fare meno fatica a reimpadronirmi di qualche brandello della mia libertà. Ma già comprendere di non essere solo con la mia esperienza per me è prezioso. Sembra incredibile. Quando ricevette la sua condanna ero un bambino, andavo appena alle elementari. La sua fatwa khomeinista e le mie minacce camorriste nascono da contesti diversissimi, ma le conseguenze sulle nostre vite, le ripercussioni sulle nostre storie di scrittori, finiscono per essere pressoché identiche. Lo stesso peso della prigionia che nessuno riesce a cogliere fino in fondo, la stessa ansia continua, la solitudine, lo stesso scontrarsi con una diffidenza che può divenire diffamazione e che è la cosa che più ti ferisce con la sua ingiustizia, che meno tolleri. Tutto quel che Rushdie dirà nel suo discorso sulle difficoltà di attraversare una strada, prendere un aereo, trovare una casa e tutto quel che rende impossibile una vita blindata mi fa pensare: è vero, è proprio così. La differenza tra me e Rushdie è questa. Lui, condannato da un regime che non tollera alcuna espressione contraria alla sua ideologia. Mentre laddove la censura non esiste, ciò che ne prende le veci è la disattenzione, l'indifferenza, il rumore di fondo del fiume di informazioni che scorrono senza avere capacità di incidere. A volte mi sembra di essere considerato uno che viene da un paese troppo spesso e a torto valutato come un'anomalia. Ma quel che dico non ha a che fare solo col Sud Italia oppresso dalle mafie, e nemmeno con l'Italia in quanto tale. Per quanto a me questo sembri evidente, temo che per molti, tolti i riferimenti alla mia condizione, il quadro non sia altrettanto chiaro. Molti intellettuali, mentre rimpiangono la loro perdita di ruolo nelle società occidentali, continuano a considerare il successo con diffidenza o con disprezzo, come se invalidasse automaticamente il valore di un'opera, come se non potesse essere altro che il risultato dei meccanismi manipolativi del mercato e dei media, come se il pubblico, a cui è dovuto, fosse impossibile pensarlo diversamente da una massa acritica. È soprattutto nei confronti di quest'ultimo che commettono un torto enorme, perché se è vero che i libri non sono tutti uguali, tantomeno lo sono i lettori. I lettori possono cercare di divertirsi o di capire, possono appassionarsi alla fantasia più illimitata o al racconto della realtà più dolorosa e difficile. possono persino essere la stessa persona in momenti differenti, ma sono capaci di scegliere e di distinguere. Se uno scrittore questo non lo vede, se non confida più che la bottiglia da gettare in mare approdi nelle mani di qualcuno disposto ad ascoltarlo e ci rinuncia, rinuncia non a scrivere e pubblicare, ma a credere nella capacità delle sue parole di comunicare e di incidere. Allora fa un torto pure a se stesso e a tutti quelli che lo hanno preceduto. Quando Salman prende la parola, ricorda che la letteratura nasce da qualcosa che è consustanziale alla natura umana, dal suo bisogno di narrare storie, perché è grazie alla narrazione che gli uomini si rappresentano a se stessi, e quindi solo un'umanità libera di raccontarsi come vuole è un'umanità libera. Rushdie non ha mai voluto essere altro che questo, un tessitore di storie, un romanziere senza vincoli. E quel che più lo ferisce non è il verdetto di un'ideologia che non poteva tollerarlo, ma la diffamazione di chi, proprio nel mondo libero, voleva far credere che non potesse essere soltanto questa la sua aspirazione, che dovesse essere guidato da secondi fini, i soldi, la carriera, la celebrità. Mi sale una sorta di magone in gola. Penso ai 10 anni blindatissimi di Rushdie e a come abbia fatto a non impazzire. Penso che soltanto chi ha una vita molto riparata e tranquilla possa immaginarsi possibile un baratto fra l'ombra della morte e la libertà. Ma Salman continua senza scomporsi, termina il suo discorso e passiamo all'ultima parte di dialogo. Alla fine, quando ci alziamo, ricevendo gli applausi del pubblico e degli accademici, ci consegnano dei fiori. E io penso che i ragazzi della scorta mi sfotteranno per questa cosa considerata da signore giù da noi. Ceniamo in una stanza dove sono passati tutti i premiati. Ci dicono che il cuoco è quello della regina, ma io quel cibo non riesco ugualmente quasi a mandarlo giù, fino a quando non arriva un trionfo di gelato alla cannella e mele caramellate. Finisce la cena. L'etichetta prevede che nessuno possa alzarsi sino a quando non lo fa il presidente. Ripassiamo per la stanza della premiazione. La sala di legno è vuota. Le luci sono bassissime. Rushdie mi dice senza più l'ironia del suo discorso pubblico. Continua ad avere fiducia nella parola, oltre ogni condanna, oltre ogni accusa. Ti daranno la colpa di essere sopravvissuto e non morto come dovevi. Fregatene, vivi e scrivi. Le parole vincono. Letture di Radio 24. Anche oggi, come 2000 anni fa, viviamo in un periodo oscuro e difficile, scrive il cardinale Carlo Maria Martini in un editoriale pubblicato sull'ultimo numero del mensile Popoli. Ma oggi come allora, aggiunge, non mancano i germogli di speranza. Forse, per comprendere meglio il mistero del Natale, dovremmo fare astrazione, almeno per un certo periodo, da quelle immagini con cui la fantasia ha ammobiliato la nostra mente e che ricorrono quasi necessariamente quando pronunciamo questo nome. Si tratta per lo più di immagini prese dal racconto del Vangelo secondo Luca. Esso ci lascia un'impressione di luminosità e di serenità. Una grande luce compare sulla terra. Si ode il cantico di pace di una moltitudine dell'esercito celeste, mentre con i pastori andiamo ad adorare il bambino che è nato e incontriamo Maria e Giuseppe che contemplano il loro primogenito. Tutto questo è vero e fa parte del mistero del Natale. Ma è importante anche ricordare il contesto oscuro in cui tutto ciò avviene. Un viaggio faticoso da Nazaret a Gerusalemme per soddisfare la vanità di un imperatore, le pesanti ripulse ricevute da Giuseppe che cerca un posto dove possa nascere il bambino, il freddo della notte, il disinteresse con cui il mondo accoglie il figlio di Dio che nasce. E su tutto questo grava una pesante cappa di grigiore, di incredulità, di superficialità e di scetticismo, evidenziata nelle gravissime ingiustizie presenti allora nel mondo. Non si può dire che il contesto del primo Natale fosse un contesto di luce e di serenità, ma piuttosto di oscurità, di dolore e anche di disperazione. Anche oggi, come allora, possiamo lamentarci di vivere in un periodo particolarmente oscuro e difficile. Basta pensare alla pesante crisi economica che mette tante famiglie in difficoltà, all'ingiustizia globale, alla crescente intolleranza verso gli stranieri e i poveri. Si aggiungano le tensioni religiose, gli smarrimenti delle giovani generazioni. Non sappiamo dire se il nostro contesto sia più oscuro e pesante di quello del primo Natale. D'altra parte è difficile che si possa trovare nella storia dell'umanità un contesto veramente favorevole all'uomo e alla sua dignità. Questo fa parte del mistero del peccato, che è un mistero di assurdità e irrazionalità. In tale quadro possiamo chiederci come opera il mistero del Natale, come affronta un contesto ostile o indifferente, che cosa sa dire per il vero bene e la dignità dell'uomo. In primo luogo appare chiaro che il mistero del Natale è un mistero di modestia e di piccolezza. Non ha la pretesa di introdurre modifiche di grande livello, che mutino il contesto in tempi brevi. E tuttavia il mistero del Natale introduce nel cammino storico dell'uomo quegli atteggiamenti quasi impercettibili, ma che permettono di cogliere la verità dei rapporti e di modificarli nel senso di un rispetto dell'altro, di una riverenza e di un'accettazione tali da poter influire anche su contesti più ampi. Alcuni di questi atteggiamenti riguardano ogni tempo e situazione, altri sono più specifici del nostro tempo, e ad essi vorrei invitare a dare uno sguardo privilegiato. Ne segnalo tre. Anzitutto, un crescente amore e desiderio della parola di Dio, specialmente di quella contenuta nella Bibbia. Essa si è manifestata sia nel recente Sinodo Universale dei Vescovi, sia in Italia, nella Bibbia letta notte e giorno, senza interruzione, per una settimana. Quest'ultima iniziativa, quasi una sorta di maratona biblica, non mancava di qualche ambiguità. Ma il comportamento dei lettori e dei fedeli e l'accoglienza silenziosa e riverente del pubblico hanno mitigato i temori della vigilia. Soprattutto vorrei ricordare in questo amore alla parola di Dio la crescente capacità dei laici di leggere le scritture e di pregare a partire da esse. Se si giungerà così a compiere finalmente il voto del Concilio Vaticano II, avremo un segnale di speranza che non deluderà. Vorrei ricordare, come secondo segnale, il crescente desiderio di apertura ecumenica e interreligiosa, che vuole contrastare efficacemente le chiusure etniche e confessionali. Ma soprattutto vorrei menzionare una serie di gesti che ho conosciuto in Israele, che non nascendo da un terreno propriamente biblico o cristiano, mi sono sembrati fiori purissimi germinati per opera dello Spirito Santo, che mostra la sua presenza anche nelle pieghe più difficili del mondo di oggi. Si tratta di famiglie ebraiche e palestinesi, che hanno subito ciascuna un lutto grave a causa della violenza, per esempio una ragazza uccisa in un attentato terroristico o un giovane ucciso in operazioni di guerra. Ora, invece di crogiolarsi nel desiderio di vendetta, queste persone si sono chieste: ma se io soffro tanto a causa di questa violenza ingiusta, quale sarà la sofferenza dell'altra parte per una violenza analoga? Così queste persone si sono cercate, hanno parlato e pianto insieme, e hanno elaborato insieme iniziative di pace e di riconciliazione, coinvolgendo anche altri. Questo fiore del Vangelo, nato in un terreno non religioso, mi è sembrato un segnale importantissimo della presenza di Dio in ogni cuore, e mi dà motivo di speranza anche in un contesto oscuro e difficile come il nostro. In tale quadro possiamo chiederci come opera il mistero del Natale, come affronta un contesto ostile o indifferente, che cosa sa dire per il vero bene e la dignità dell'uomo. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale Il Natale di un tempo oscuro, scritto dal cardinale Carlo Maria Martini e pubblicato nel numero di dicembre del mensile Popoli. Nella sua prefazione all'edizione 2009 dell'Agenda letteraria Dante Alighieri, l'arcivescovo Gianfranco Ravasi confronta il paradiso dantesco con quello di oggi. Chi conosce solo in modo vago e approssimativo la Bibbia, forse immagina che le sue pagine siano spesso costellate di scene paradisiache, e quel vocabolo ormai secolarizzato, i paradisi artificiali, ad esempio, sia cosparso a piene mani nei testi sacri. Il paradeisos greco e il nostro paradiso vi risuona solo 6 volte, 3 nell'Antico Testamento, ove è semplicemente un giardino fiorito, e 3 nel Nuovo Testamento, ove si spiritualizza divenendo il simbolo dell'oltrevita riservato al giusto o al convertito, come il buon ladrone. Oggi sarai con me in paradiso, gli annunzia Gesù in croce. Una sobrietà che impedisce, al termine, di essere presente persino nella descrizione originale del secondo capitolo del libro della Genesi, ove appare quello che noi continuiamo a chiamare il paradiso terrestre. In realtà, l'immagine paradisiaca, dal profilo vegetale, è solo un simbolo per evocare lo stato perfetto di vita, gioia, amore, pienezza, situato oltre il tempo e lo spazio, nell'eterno e nell'infinito di Dio a cui è destinata la creatura salvata. È su questa gloriosa ma essenziale metafora che la tradizione letteraria, artistica, teologica ha intessuto un'immensa raccolta di scene, di temi, di figure. E il paradiso di Dante ne è una straordinaria testimonianza, segnata da altissima fede e da una suprema poesia e fantasia. Certo, chi ora riesce a fremere solo per i paradisi delle Maldive, delle promozioni turistiche, ha del tutto perso il significato metaforico di quel giardino spirituale che era il significato di base dell'antico vocabolo iranico ebraico greco. Erich Fromm, nella sua Psicanalisi della società contemporanea, 1955, colpiva nel segno quando scriveva che l'uomo moderno, se osasse esprimere la sua concezione del paradiso, descriverebbe qualcosa di molto simile ai più ricchi grandi magazzini del mondo, pieni di novità e di gadget, e se stesso con una quantità di soldi per comprare quella roba. In verità, anche i predicatori oggi si preoccupano poco nei loro sermoni di affacciarsi su quell'orizzonte di salvezza piena e non meramente materiale che tutte le grandi religioni propongono, sia pure sotto rappresentazioni differenti. E così non insegnano più che alla creatura umana è aperta una via, forse aspra e stretta, erta e irta di ostacoli, ma capace di approdare all'eterno e all'infinito del paradiso. Non ricordano più ai loro fedeli quello che osservava Bruce Marshall nella sua Preghiera per una concubina, 1978. Nessuno di noi si sveglierà un bel giorno in paradiso senza sapere come c'è arrivato, perché, ed era uno dei sermoni del predicatore inglese secentesco Thomas Adams a notarlo impietosamente, nessuno arriva in paradiso con gli occhi asciutti. Non per nulla Dante, sulla scia della grande tradizione cristiana, aveva premesso la potente ammonizione infernale e la catarsi purgatoriale prima di entrare nell'empireo paradisiaco. Il paradiso è allora non solo uno stato terminale di salvezza, ma anche una conquista quotidiana, il seme della tensione interiore, la grandezza dell'orizzonte dell'anima. Non c'è solo il paradiso perduto ad attenderci, c'è anche il paradiso futuro. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale dell'arcivescovo Gianfranco Ravasi, Il Paradiso di Oggi, pubblicato nell'edizione 2009 dell'Agenda letteraria Dante Alighieri, Metamorfosi Editore, 160 pagine, 18 euro. Dalle pagine di Avvenire, Marco Missiroli commenta una lettera che evidenzia le difficoltà nei rapporti tra genitori e figli. Ho trovato una lettera nella mia buchetta della posta. È una lettera come quelle di una volta, protetta da una busta sottile ben incollata e scritta da una penna nera. Scricchiola quando la si tocca, e quel crepitio è forse una voce. È una lettera che va al di là delle molte email che ricevo per questa rubrica. Parla a tutti noi, e vorrei che fosse la lettera che si prende all'arrivo di questo Natale. L'ha scritta un padre e una madre, pensando a una figlia che è lontana, una figlia che non si trova, una figlia che non si fa più sentire. La leggo e la rileggo. È scritta con una grafia discreta che non ha paura di disturbare. Non disturba affatto. Anzi, mi spiega cos'è la perdita più grande del mondo. Una figlia che non c'è più. E questa lettera mi chiede di quella forza del pensiero di cui avevo già scritto circa 2 mesi fa su questo giornale. È a questa forza che 2 genitori si sono aggrappati con la loro voce, silenziosa, che sussurra «Dove sei? Cosa fai?» «Siamo qui, figlia nostra». È una lettera che parla della solitudine di chi ha generato senza condizione e ora non può che sperare in un amore senza condizione. E io me lo immagino, questo amore. Cavalca il pensiero che ha più fiuto di qualsiasi altra cosa. Andrà a cercare vostra figlia e le dirà della vostra mancanza, del vostro istinto. Lo farà con il coraggio addosso e con quella incoscienza che fa cadere le cose senza i perché e i per come. Le direte «ti vogliamo bene» e lui glielo porterà. Le direte ci manchi, e lui glielo porterà. Le direte ti aspettiamo, e lui glielo dirà. Su questo non ci sono dubbi, come non ci sono dubbi che voi non siete soli. Ci siamo anche tutti noi, che crediamo nel pensiero che va ad acciuffare chi amiamo, in quel pensiero che è talmente forte e ostinato che non si arrende nemmeno ai ricordi, al tempo che passa e alla stanchezza. Non smettete mai e poi mai di crederci, perché al vostro pensiero si unisce il mio e quello di tutti quelli che ci credono. Cerchiamo tutti insieme vostra figlia, le diciamo del vostro sentimento e del legame che non si romperà mai. Le ripetiamo che il vostro amore è più forte della dimenticanza, è più resistente dell'astio e delle tragedie. Il vostro amore è più forte della dimenticanza, sì. E adesso che riguarda la vostra lettera, non posso che pensare alla notte di un Natale che sta per arrivare. Tutto diventa coro, in una sola voce. In quella notte i silenzi si faranno vuoti incolmabili, le gioie esplosioni, le malinconie tristezze, le illusioni speranze. Così un sussurro può diventare grido, diventerà il grido che arriverà dove vogliamo. Davanti alla vostra lettera non posso che pensare ai versi del più grande poeta che l'uomo probabilmente ha avuto, Rainer Maria Rilke. Ai sospiri dell'amata, la notte intera si innalza. Una carezza leggera percorre il cielo stupito. E allora è come se nell'universo una forza elementare ridiventasse la madre, tutto l'amore smarrito. Penso a questo cielo, quanti bagliori che fa vedere nel suo buio apparente. Ho intravisto una luce e poi un'altra. Attraversano senza timore. Sono i pensieri che cercano e che arrivano all'universo, che obbediscono ad una sola legge, l'amore più grande, come quello verso una figlia, che forse sta già ascoltando la vostra voce, la nostra voce. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Marco Missiroli da Avvenire del 18 dicembre.